Puta Nirvana. Melody Record. Slickaton Sonny Nekti. Ausia di Mandela. Ma per lo so. Tingo koe merko koe demi koe kabeh tak lakoni. Yo mong